brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia. La terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia. La terra brucia di dolore, se la terra è la mia, quante storie in questo sogno strappato dall'ipocrisia. Selvaggio fiore, scrivimi il tuo nome, che il tempo non cancellerà, e il vento porterà nei confini della realtà un'altra società. Rosa d'Oriente profumata, uccisa, esiliata, spezzata, rinchiusa nelle celle oscure, prigioniera la tua lingua, non puoi più parlare, ma un giorno cambierà, vedrai, finirà. La terra brucia, la terra brucia, la terra brucia, la terra brucia.